Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 due minuti, bentrovati su Blu Radio Veneto, oggi mercoledì 8 agosto 2012, la voce è quella di Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara, appuntamento anche questa sera con Rock Wave Live, il nostro appuntamento classico con la musica dal vivo del mercoledì sera. Io, Maurizio, come al solito arrivo qui senza sapere niente, però da quanto ho capito abbiamo un putpourri questa sera di nazioni, di posti, di luoghi. Sì, una cosa molto importante stasera. Intanto ringraziamo The Birds, che anche questa volta sono il nostro gancio. Una volta era Raffaella Carrà, faceva i ganci, noi invece abbiamo un gancio musicale. State bene? Sì, no, pensavo che a quanto fortunati siete ad avere noi come gancio. Insomma. Sì, dubbiamente, sono perfettamente d'accordo con voi. O gancia anche, visto? O anche gancia, sì. O gancia, sì. Siamo molto fortunati di aver voi come gancio, perché stasera dobbiamo presentare un progetto molto particolare. Giulia, lo conosciamo già, Giulia Bulce è un musicista australiano che è venuto a trovarsi qualche mese fa con voi, però stasera qualche anno fa. E sì, e presenta un progetto molto interessante, il Cambogia Space Project. Come è nato, come si è sviluppato l'idea, come è partita? Julian is Maurizio asking you how Cambodian Space Project start. Really completely by accident. I didn't know anything about Cambodia, and I was sponsored to do a music program in East Timor, and war broke out there again, and I had to call my sponsor and say, look, thank you for giving me the money for this project, but I'm not going where I said I was. And they said, look, the project's for all Asia. You should have a look at the map and call us back. So 2.5 minutes later, I called and said, well, you know, what about Cambodia? And they said, yeah, well, you're the first person we've sent there. Go, best of luck. So I went, and I think the moment I realized I wanted to explore Cambodian music further was when I met a very old... blind musician called Master Kong Nay, and I met him in a shanty town in front of a tin shed. He was sitting there with a big cup of tea and a packet of Liberation cigarettes and this long guitar called the Chapai Dong Veng with just two strings on it, and he started singing, and it sounded like some of the best of the Delta blues. It was like coming across Robert Johnson or Sun House. Beh, Julian, lui ha spiegato bene, però adesso tu spieghi meglio. Julian ha detto che è capitato quasi accidentalmente in Cambogia, perché è stato sponsorizzato per fare un documentario, diciamo, musicale in Asia. E parlando col suo sponsor ha detto, cosa ne pensi di fare la Cambogia? Come ha detto, non ho nessuno che si occupa di quell'area là, quindi Giulia è andato là e la prima, diciamo, figura che ha conosciuto, diciamo, importante musicale, è stato sto musicista cieco, una sorta di guru, di blind, esatto. Lemon, yeah. Very powerful voice, a voice like Max's. Just whoa! And when I heard that voice, I cancelled my return flight, and I thought I would stay and record some music, and it led to the Cambodian Space Project. E quindi quando, diciamo, ha sentito sta voce potente da cantante blues, diciamo, del Delta. Julian ha detto, non comprerò il mio viaggio di ritorno, cioè il mio biglietto per tornare, mi fermerò. E prima ha descritto che sto cantante suonava con io non riesco a pronunciare bene le parole, insomma, quindi una specie di chitarra con due corde. Sono rimasto impressionato anch'io da questo musicista, insomma, anche Emanuele, cioè, ricorda molto i musicisti del delta del Mississippi degli anni 30, insomma. Quindi voi che il blues l'amate profondamente. Sì, sì, ci sono tra i delta, questo è il delta del Mekong, ci sono delle grandi affinità. E quindi da là Julian ha deciso, qua mi fermo e qua... Mekong Delta Blues. Mekong Delta Blues. Ho capito, quindi è partito là il progetto, quindi sì, sì, sì. Partito si è sviluppato in quel senso. E questo musicista cieco non è stato l'insegnante della nostra vocalist, che stasera purtroppo non c'è per motivi di salute, però... ci sente via radio. This singer, the master, the master, master Kong Nei, yeah, is was a Chanti teacher. Yeah, he is a teacher, and he is important because the Khmer Rouge, when they took over Cambodia in 1975. They not only perpetrated a genocide, but they targeted culture. They wanted to eradicate music, any culture that existed before. Music, religion, they abolished currency. And Master Kung Nei is one of the few experts in this ancient form of blues music. And Sreti is one of the very few women in Cambodia who learns this music, and it's an improvising kind of music where it's like troubadour music. Chapai players used to sit in the village and sing whatever was topical. It could be funny, very witty, very clever, or very sad, or even political. But of course, in the Khmer Rouge times, no one sang. Music was outlawed, except for Khmer Rouge propaganda songs. Diciamo che l'importanza di un artista come Master Kung Nei, sì, sì, is, chiedo scusa, l'importanza è che è un vero e proprio depositario di una cultura che è stata spazzata via dai Khmer Rossi. Esatto, ricordiamo quel discorso là, molto importante, fondamentale. Sono arrivati Khmer, praticamente hanno distrutto la cultura. Hanno distrutto sia la cultura, diciamo, come la cultura un po' occidentalizzata, sì, della Cambogia degli anni 50 e 60. Certo. Dove aveva attecchito, anche parlando sempre da un punto di vista musicale, dove avevano attecchito generi come il rock and roll, il blues, ma soprattutto la musica più antica, che è quella del master di Master Kung Nei, che era un, spiegava Julian, una musica basata sull'improvvisazione e che affrontava qualsiasi argomento dalla storiella, diciamo, divertente alla politica. Quindi chiaramente i Khmer Rossi l'hanno completamente tagliato al suolo, assieme alla religione. Certo. E per, musicalmente, per lasciare, come dire, per creare una cancrena che si stringeva proprio solo sulla musica da propaganda, insomma. Esattamente, le marce ed altre cose, esatto. Musica militare praticamente. Benissimo, adesso per poter capire musicalmente qual è il progetto, questo è il secondo disco, vero? Second. Yeah. Perché Julian li ha prodotti tutti e due praticamente, il primo e il secondo. Il primo disco come si chiamava, che è il titolo del primo album? First record title? The first record was a 45 single on vinyl, and we released that because it was the first vinyl released in Cambodia since Pol Pot came to power. You cannot find a record anywhere, and it was called Kinyomun Sot Chit Te, which means I'm unsatisfied in English. Il primo è stato un singolo 45 giri, che era I'm Satisfied, una re-edition. Una re-edition. It was a 60s singer called Pan Ron, and she was very enigmatic. She sang very saucy, risque lyrics. Sorts of lyrics that would be outlawed today. You would be censored if you're a woman singing this music. So Sreti Chanti likes this singer. She also disappeared in the killing fields, Pan Ron. So a lot of the work we've been doing has been a tribute to the singers from the 60s. È stata la riedizione, cioè il primo lavoro di Cambodia, che I'm tradotto I'm Satisfied, è stata la riedizione di un brano di il nome Pan Ron, Penrhon. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, insomma, però sei bravo, stai traducendo tutto. It took me a lot longer than you, Max, to learn some of these names. Quindi però è stato una di quegli artisti poi eliminati dal regime di Khmer Rouge. Rouge. Sì, beh, giusto, sì, la Cambogia era nell'orbita francese, quindi è giusto dire così. E senti, adorava questo pezzo, un pezzo comunque anche molto coraggioso, perché già negli anni 60, diciamo, erano molto più avanti di quanto sono anche tutt'oggi in Cambogia. Certo, sono d'accordo. E quindi una grossa sfida del loro lavoro non è solo recuperare i brani, diciamo, che proprio hanno radici profonde nella storia cambogia, ma anche recuperare questi gloriosi anni 60 musicali che cambogiani che Giulia mi spiegava erano diventati anche molto molto bravi a registrare e avevano metabolizzato, fatto loro il genere del blues, del rock and roll. Quindi c'è stato questo primo disco e poi è arrivato finalmente questo nuovo disco che ha avuto ottime recensioni mondiali. Questo è stato il primo dagli anni 60, prima degli anni 60. Adesso c'è questo nuovo disco. Per iniziare ad ascoltare questo nuovo disco, Giulia ha scelto la traccia numero 2. The second track is called, in English we call it Baby Lady Boy. We ask Chanti sometimes, what is the song called? And she will come out with a broken English title, and it's a strange song title, but it is a very old melody. I've chosen this track because the vocal melody is powerful, and it's probably, you know, 200-300 years old, but the music is psychedelic, and it's influenced by the psychedelia of the Cambodian 60s musicians. È un brano che ha una melodia molto potente ed è forte anche della psichedelia, appunto, come si diceva prima, elaborata dai cambogiani all'epoca degli anni 60. Sì, esatto. Adesso lo sentiamo allora. Rock Wave, l'onda del rock. Yeah. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, dobbiamo sottolineare una cosa fondamentale. Emanuele e Max stasera ci fanno i traduttori. Adesso ha parlato sempre Max, poi parlerà anche Emanuele. The Birds praticamente sono loro il fulcro di tutto. E poi c'è Giulia. Giulia è l'artefice di questo progetto. E parliamo di questo pezzo molto psichedelico, molto ipnotico, Giulia. Sì, sì. I think that was the two things that attracted me. I didn't know much about Cambodia at all. I knew only things like the movie Apocalypse Now, Angkor Wat, the wartime history, and the Dead Kennedys holiday in Cambodia. These were the things that were in my mind as the plane arrived at Pochentong Airport in Phnom Penh. And when I found this music, I found it in the countryside, not in Phnom Penh, at normal, regular wedding parties, with everybody dancing to this very groovy, very hypnotic, very psychedelic sound. And I just thought, well, that's what I want to do. I better form a band, otherwise I'm going to miss out. Giulia ha detto che l'idea che aveva prima di arrivare in Cambogia era riguardo i Death Kennedys oppure riguardo Apocalypse Now, sì. Aveva un'idea abbastanza così vaga, occidentale, insomma. Poi quando è arrivato là, non in città, no, a Phnom Penh, ma fuori, nella campagna. Diciamo, è rimasto innamorato delle sonorità delle feste di matrimonio, wedding parties. E ha detto: questa sì che è la musica che voglio fare un gruppo e fare questa musica qua. E parliamo allora della cantante che è la moglie di Giulia. Talking about the Centi. La voce, straordinaria voce della vocalist. Come hai fatto? Come hai avuto l'idea di fare questo progetto? Di inserire la voce della cantante? Il nome della cantante, come si chiama la cantante? Name of your Chanti, Srei Chanti. Sometimes she's called Srei T, and when she was born, they called her Blackbird as a nickname. It was not a nice nickname, but she's known as Srei Chanti. And she has a very, very special voice, a golden voice. And I met her by good luck. I had already been in Cambodia for 3 or 4 trips, working with all sorts of different musicians. And I was looking for a female vocalist to record. And I had recorded 2 young women who I thought were interesting. But then I realized that they were just singing the same songs everybody knew. And when I was taking them back to their house in the taxi, one of them said, "You should come to meet my friend. She's a very good singer and she works in a bar where I work." So I was a little bit dubious. In Cambodia, everyone says, "My brother can be your taxi driver," or "My friend has a very good restaurant, you should come here." So I did end up taking her advice, and I went and met Chanti, and she didn't speak any English and I didn't speak much Khmer. I just had a laptop with all these old Cambodian songs, and I gave her some headphones, put them on her head and said, "This is what I'm interested in." And she said to me, "Oh, she's very excited." And then the only English she could say was, "Would you like to eat, drink beer?" And so yes, I got a beer and a singer, and now my wife, all in one answer. Giulia aveva già fatto 4 viaggi in Cambogia e aveva già allestito, diciamo, una formazione di musicisti e stava cercando una cantante, una vocalist, e ha trovato questa strepitosa voce praticamente. Diciamo che ha raccontato questa storiella divertente, perché tra le persone che ha contattato ce n'è stata una che ha detto: ho una mia amica che è davvero una bravissima cantante, ma siccome là in Cambogia praticamente qualsiasi persona ti dice che ha qualcuno che ha tipo un buon ristorante dove devi andare o che ti può fare da tassista, insomma era un po' dubbioso. Poi la conobbe Shrey Chanty, che lavorava in questo bar. E, scusa, io sto sempre attento insomma alla pronuncia, perché insomma poi la grappa non aiuta come sempre neanche in italiano, figuriamoci in cambogiano. E non conosceva la lingua Julien, Centino non conosceva l'inglese, e Julien ha messo delle cuffie, ha detto io vorrei fare questa musica qua. Lei, come dire, impazzita, perché la musica proprio che amava, e diciamo l'unica cosa che sapeva dire in inglese sentire would you like a beer, ti va una birra, Julien ha detto di sì, e poi è cominciato il discorso. È cominciato il discorso. She asked if I would like to eat a beer. Eat a beer. Yeah. Ha chiesto esattamente se voleva mangiare una birra. Julien in ogni caso ha detto di sì. Julien stasera ci ha portato una cosa meravigliosa, l'LP, cioè il vinile dell'album, molto interessante, molto bello. Io parlavo prima con Max e Emanuele, a me sembrava, forse Sergio non se lo ricorda, ma io che sono più vecchio di Sergio, un po' una copertina dei Jefferson Airplane, Blows Against the Vampire. Cosa dici, Giulia? You understand? A little bit. It looks like a Jefferson Airplane album. Hey? Jefferson Airplane. Yeah, well, you know, it really, some people have said they see Grateful Dead type era references there, and the Ken Casey kind of Kool-Aid acid test type of thing going on with the Cambodian Space Project. I'm not too sure about it. It just comes out this way. It's naturally... it's a group that lends itself to good artwork, interesting artwork, and on the cover here we have Chanty on this kind of Cambodian taxi with all these animals and instruments and elephants and tigers and guitars and amplifiers. And one kangaroo. Ci sono c'è tutta la band disegnata praticamente nel disco. Diciamo che diciamo che nella copertina, che è molto bella, molto bella, ci sono molti personaggi un po' la ripresa delle canzoni, perché c'è la scimmia, il canguro, c'è la tigre, c'è l'elefante, una specie di circo. L'idea della cover, chi l'ha fatta? L'idea, il pittore, the cover? It is by a guy called Marty Schneider. I think there's a website called MartySchneider.com, and I've never met him in person. He emailed us to say that he liked the project and would like to send an illustration, a picture, and he sent this one, and it's molto bellissimo. Molto bellissimo, sì. Decisa molto bellissimo. So, veramente un capolavoro assoluto, molto molto bello. Grazie Marty. If you're listening out there, wherever you are. Marty Schneider, l'illustratore praticamente. Sì, Cambodian Marty Schneider. Marty Schneider's based in Sydney. Australiano. And you know, through the internet, through Facebook, he or something like this, YouTube maybe, he discovered the space project and responded with this artwork, this visual art, and it's very it's wonderful. Yeah, okay. A proposito di Wonderful, suoniamo qualcosa adesso? You would like to play something? Yeah, sure. What song? Are you going to join me on accordion? Yeah. Okay, great. Let's. Adesso Emanuele prende la fisarmonica. E Max cosa prende? Ancora, Max non prende ancora niente. No, grappa. Non c'entra. I say what I take to play. I play the grappa. Il microfono. Ecco, Emanuele, se potete avvicinare il microfono, sì. We could do. Esatto, anche quello. Ok. Okay. It's called She Left Her Heart in London, and it's in the key of D. Okay. Thank you. Well, she left her heart in London, packed up all her things, said goodbye in an email, something about going on her own. She sent me back a postcard from somewhere I'd never seen, with a little cross drawn to mark the spot of the last place she'd been. She said, darling, my heart is a river running for the sea. Darling, my heart is a river, it's the wheel that's turning me, that takes me home, that takes me home, that takes me home, that takes me home. Got to India, some kind of retreat. Met a man with a surefire plan, she always landed on her feet. Sent me back a postcard from somewhere I'd never seen, with a little cross drawn to mark the spot of the last place she'd been. She said, darling, my heart is a river and I'm running for the sea. Darling, my heart is a river, it's the wheel that's turning me, that takes me home, and it takes me home. It takes me home. It takes me home. Everybody knows everything grows just with her. Everybody knows all things grow just with her. With her and fade. Everything grows just a wither. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Allora, 22:32 minuti, siamo in diretta su Blu Radio Veneto con Cambodia Space Project. Maurizio. Eccoci qua, bellissimo questo pezzo. Sembrava quasi un country. Sì, me la ricordava, sì. Non so se sei d'accordo Max e Emanuele, è un po' un pezzo dei Pogues. Ma non so niente, mister. No, no, conosci i Pogues, sì. Giulia, li conosci i Pogues? Sì, li conosciamo i Pogues. I Pogues, folk Pogues. Band, Pogues. Band inglese. Pogues, wonderful, yeah, yes. Molto, un pezzo molto bello, molto folk. Lovely to see the Pogues touring again and... I'm horrified to see Shane McGowan. Shane McGowan, exactly. With teeth. Yeah, exactly. Without teeth. Yeah. Without teeth, I think he had a more authentic sound. Esatto. Pezzo molto, molto bello questo carico. Thank you. Muchas gracias. È un pezzo decisamente folk, cosa dice Emanuele? Sì, beh, anche la fisarmonica è folk. Fisarmonica parla. Sì, sono d'accordo con te, Maurizio. Benissimo, ritorniamo al progetto. Innanzitutto, l'album si chiama. Not easy rock and roll. Sì. Ok? Yeah. Not easy. Perché? Why not easy rock and roll? You know, Chanti grew up in a war zone. She was the daughter of a tank driver. Her father looked after a Soviet T-53 tank, and for the first 10 years of her life, all the families, including the Bambini, they would move with the soldiers to the front lines. They were all in the firing line because they would go with their pots and pans and cook rice. And so that was not easy, the first 10 years. The next 10 years she spent looking for food. Two of her siblings starved through malnutrition and no food. Life changed when we formed the Cambodian Space Project, and we've been all around the world a couple of times. But rock and roll is not easy. And if she grew up with AC/DC, she would know the very similar song lyrics, "It's a long way to the top if you want to rock and roll." In Australia, we sing "A long way to the shop if you want a sausage roll." But Not Easy Rock and Roll is a song by Chanti. It's the opening track of the album, and it's a storytelling song. It's a troubadour song. It talks about the journey along the way, and it's very similar to the AC/DC song idea, "It's a long way to the top." Bye bye. Però il punto è che non è stato rock and roll facile, perché non è stata una vita facile, insomma, quella di Chanti. È nata in una zona di guerra. Il padre era guidava un tank russo, era un militare praticamente. Praticamente sì. E infatti anche diciamo l'automobile di famiglia era questo tank, insomma, molto particolare. E questo, diciamo, la guerra è stata appunto i primi 10 anni di vita di Chanti, e poi gli altri 10 anni sono stati la ricerca del cibo, insomma. Certo. Ha lavorato in miniera, ha lavorato nelle piantagioni di gomma, insomma. E poi è partita l'avventura dei Cambodian Space Project con 2 giri del mondo. Ed è ancora, non è ancora facile, non è ancora un facile rock and roll, insomma, perché dietro c'è sto vissuto. C'è tanta sofferenza. Giulia diceva che lo paragona "It's a Long Way to the Top" degli AC/DC. Ah, ok. AC/DC. Vai, vai. Che insomma spiega la vita dura la vita dura che devi fare se vuoi fare musicista, insomma. Dobbiamo ricordare che Julian è produttore, è arrangiatore, creatore anche di documentari, è scenografo, sa di cinema, quindi è un poliedrico, ha tante attività artistiche praticamente. E continua adesso. Mi diceva prima Emanuele a microfono spento che questo progetto è stato recentemente, sono stati a Londra, sono stati alla BBC. Emanuele, raccontami. Sì, sì, come dicevo prima, loro hanno presentato questo progetto alla BBC 3 a Londra qualche mese fa. Un regista, the name of director of the documentary, Marco Belli. Mark is a German filmmaker whose last film was about the CIA's secret war in Laos. So, you know, the real characters from Apocalypse Now, the real Colonel Kurtz. He made a wonderful documentary on these characters that work for the CIA. And he'd been making mostly political documentaries, but came across the Space Project at our first gig and decided to do something completely refreshingly away from the sort of, you know, heavier subjects of some of his other films. Un altro, diciamo, come il la persona, diciamo, l'artista che ha fatto la copertina, questo è un altro, anche questo regista tedesco è stata una persona che è rimasto colpito, coinvolto dal Cambodian Space Project. E diciamo è un regista che si occupava specialmente di documentari politici. Si è occupato per esempio di un documentario che mostrava una sorta di guerra fatta dalla CIA in Laos, e appunto siccome c'è molto oltre, diciamo, l'aspetto musicale di Cambodia Space Project, ha voluto ho capito, ha voluto coinvolgere, ha voluto immortalare il gruppo, insomma, esatto. Dopo averli visti in un concerto, certo. E dobbiamo sottolineare quindi che loro hanno fatto il giro del mondo, due volte il giro del mondo, e sono pervenuti, sono andati proprio tra sabato e martedì qui vicino. Sono stati dove, sì, Emanuele? Siamo stati in Villa Cazzane Martin a San Bruson di Dolo. Di Dolo, quindi provincia di Venezia. Hanno fatto due concerti acustici sabato e ieri martedì. Però volevo ricollegarmi al discorso di prima. Stavo dicendo che appunto questo documentario, sì, di questo regista tedesco è stato trasmesso da poco anche su canale Arte, canale francese, uno dei più importanti canali francesi che trasmettono documentari e eventi culturali. Riesco su un ottimo successo sia di livello di critica che di seguito. Di seguito. E possiamo chiedere questo a Giulia: che difficoltà ha avuto a fare questo secondo album? Che difficoltà hai avuto a comporre, a costruire come produttore, e non soltanto come produttore, come realizzatore in toto di questo disco? Giulia, you have when you record this album, you had the problem for recording, or which are the problems you had to face? It was very difficult to create something like this in Cambodia today. There are very, very few studios, and the studios that are there are dominated by kind of pop artists that are just really producing karaoke kind of music. So to encourage local technicians to be excited that we can maybe have a challenge to record an album that is different was difficult to begin with, but we managed to do this, and it's an exception in Cambodia, and I hope that it is and will influence many other people to do the same. Actually, it's really begun, you know, it started a scene of music. Ok, dimmi. Non so se vuol dire anche Max. Max diceva appunto che ci sono pochi studi di registrazione a Phnom Penh, tra l'altro di questi studi non sono attrezzati con le tecniche di adesso. Sì, con le tecniche di adesso, e sono studi solitamente usati per fare musica pop. Pop da classifica. Sì. Non neanche da karaoke. We did have a good set of microphones. The world music champion Peter Gabriel had donated a bunch of microphones to the studio, so the microphones worked, nothing else worked. Ho detto che Peter Gabriel praticamente ha donato questo studio dei microfoni, ma ci sono solamente questi microfoni che sono buoni e basta. E basta. Benissimo. È stata proprio una sfida per quelli dello studio, anche per loro, insomma, registrare questo album, perché non era facile. Non è facile. Sì, può essere un esempio magari per altri artisti che volessero, insomma, provare, insomma, praticamente. Sentiamo un altro pezzo dal disco, la traccia. Che traccia hai scelto? La terza. Don't Say You Love Me. What's it called? Don't Say You Love Me. Exactly. I won't, but I have to. I love you. It's a wonderful track. Little bit disco, a little bit funky. L'andiamo a sentire allora. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. C'è un baccanale da quelle parti. Fa parte della musica, sì. Della musica. Questo è un pezzo molto interessante. Molto easy. Sì. E diceva Giulia, diceva Max e Emanuele che c'erano dei musicisti. Chiaramente ci sono dei musicisti, alcuni famosi, alcuni letteralmente cambogiani, direttamente cambogiani. Adesso spieghiamo un po' i musicisti, Giulia, che hanno partecipato all'album. The musicians are it's a shattering melting pot. It's a really dynamic melting pot in the Phnom Penh scene, and I think it always has been. It's French colonial, so there's a lot of French musicians, French Khmer, French Cambodian, that is, and occasionally American musicians, and strangely, two Tasmanian musicians in this. One of my partners in the project is also from Tasmania, where I came from. And my mother actually taught him English in school, but we never met until we got to Cambodia. But the backbone of the group is Bong Sak on the drums. I call him the Al Pacino of Cambodian rock because he's got a very hard-looking face. He's a hard, weather-beaten, tough guy, but a beautiful guy and a funky drummer. And he's also a farmer, so... He balances the two things, and in between we have a wonderful collective of musicians like the saxophone player there, Stefan from France, who's world class. Diciamo che è un insieme di musicisti che diciamo in parte cambogiani. In parte, essendo la Cambogia un'ex colonia francese, parte di origine francese, in parte come Julian Tasmani. Sì, quindi australiani praticamente. Faceva sto... Australia. But in Tasmania some of us are separatists. Ho capito, cioè non è una repubblica ancora Tasmania. No, ha detto che Australia, però ha detto che ci sono dei separatisti Tasmania ancora. Ok. E citava questo esempio di questo musicista tasmano che Giulia ha conosciuto durante le registrazioni del disco, che poi ha scoperto essere stato uno studente di sua mamma, perché la mamma di Giulia insegnava a scuola, insomma. Ho capito. E diceva che tra i vari musicisti, che lo zoccolo duro del gruppo sono musicisti cambogiani, tra cui hai citato il batterista, che è un, lui chiama l'Al Pacino cambogiano, perché è un, un'espressione da duro, molto sì, un ex militare insomma, che adesso fa il contadino e il musicista, insomma. Si chiama Bong Sak. Bong Sak forse. Yeah. Bong Sak is a tough guy. He is someone, when we first started touring, people would ask, oh, will he be okay with this bed? I would say, look, he can sleep on an ant's nest, you know. He's an ex-soldier. But when we went to London, he hated the food and the experience so much, he'll never go back to London again. So he only works with us within motorcycle range from his village in Cambodia. Detto, parlava di Bong Sak, che appunto, il batterista che durante il viaggio è stato chiesto puoi dormire. Cosa sono andati a Londra praticamente? In giro per il mondo. Che se una stanza era comodo, un letto era comodo, e lui, Julian, diceva può dormire praticamente ovunque perché è un ex soldato. Quindi non ha problemi. Diciamo, l'unica esperienza davvero negativa e non vorrebbero ripetere quella londinese, insomma. Ho capito. E vorrei chiedere questo a Giulia. Lui costruisce i pezzi, ha scritto i pezzi. Come è riuscita ad inserire la voce della vocalist, della cantante, nei pezzi? I pezzi erano nati prima e poi la vocalist li ha incisi, o erano già costruiti direttamente? How the songs are born. You write before the music, or... you listen the lyrics from Shanti, and after you write music? It's just a case of a very different group of people getting together and not knowing what we're doing, having no idea. But after a while, we notice that Srey Sri Chanti, had a story to tell. She has a big story, and she would come along and say, I have a song. And we would say, oh, okay, how does it go? And she would just sing the song. So we would try and follow her with the music. Then later she would tell us what the song is about. Or sometimes she would tell us, oh, this song is about whiskey Cambodia. And this happens in the song and that happens. So it was, it's always a very new experience. It's exciting. I like working this way because all the rules that I know are thrown away. Diciamo che inizialmente accadevano, insomma, praticamente le jam session, insomma, non c'era una direzione ben precisa. Poi a un certo punto la formula è diventata quella di insomma seguire Shrey Shanti, la voce sua praticamente. Sì, ho una canzone inizialmente tentavano di seguire musicalmente, insomma, e alla fine magari spiegava di cosa si trattava la canzone. Poi col tempo, insomma, diceva: guarda, la canzone tratta di questo, adesso succede questo, adesso succede quest'altro. In insomma, quindi proprio il gruppo è incentrato su questa figura, insomma, che ha una grande storia da raccontare. Insomma. Certo, certo. Allora facciamo così: adesso sono le 22:53. Diremo è giusto suonare ancora. Cosa dice Emanuele? Do you want to play another song live? Yeah, sure. What song? Let's do... let's just check our tuning. It's called... Controlliamo prima la cordatura della chitarra. Beh, tutto dal vivo, eh. Okay. It's called I'm Going South for the Winter. South. And it's a song about. Ma va bene lo stesso from. Comunque. Sì, sì, sì. Okay. All right, it's okay. The microphone's been drinking. Okay. It's all good. Okay. Now that works. Okay. Hey, I really. Okay. It feels like Cambodia. All of a sudden. Sì. Let's just check your C chord. Do. It's in C major. And it's a pleasure to be here on Blue Radio Veneto. Piacere essere qua a Blue Radio Veneto. Grazie anche a noi. A pleasure again. Can I just hear that chord? Okay. Good enough for hillbillies. Gonna cross over deep water, leave all my troubles behind. Gonna take with me a lover, she's always on my symphony. himself for the winter. Gonna breathe in that changing air, where the wind and the trees meet and they roar in a symphony. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Abbiamo bruciato la prima ora, Maurizio, prima oretta, con sì. I Cambodia Space Project. A te. Ok, abbiamo sentito un nuovo pezzo cantato da Giulia, cantato molto bene, cantato era una ballad, this ballad. Sì, yeah. South for the Winter. Una ballad sicuramente. Well, it's really from singing about where I come from in the very far south of Tasmania. Mm. So a lot of our music are traveling songs. Mm. La canzone parla di, insomma, da dove viene, parla della Tasmania. Della Tasmania. E cioè, ha detto che la maggior parte delle canzoni sono canzoni che parlano di viaggi. Mm. Lui è un viaggiatore in ogni caso. Lui è un viaggiatore. Un grande viaggiatore. Sì, sì, sì. Uno che vuole, che scopre il mondo, che è andato in Cambogia e ha scoperto e ha formato una band. E quando gira il mondo, ha fatto due volte il giro il mondo, mi dicevi, e la band come si esibisce, elettrica o acustica? When you travel with a Cambodian, did you in your performance are electric or acoustic? Well, we're mostly traveling with an electric band. You know, it's very very psychedelic, big beat. But we need to be playing at a festival where there's big sound production to do this. But here it's just myself and Chanti and Emanuele joined us yesterday playing all sorts of instruments. I lost count of how many instruments were backing us, and when we play like last night at the beautiful Villa Cesani Martin, it's acoustic music and it just features Chanti's voice. Diciamo che di solito si esibiscono con una grande band elettrica psichedelica. Perché il suono del disco io l'ho sentito. Abbiamo sentito prima chiaramente della trasmissione più di una volta, è un suono decisamente psichedelico, una psichedelia però ripresa alla cambogiana, possiamo dire questo. Un'idea di psichedelia alla cambogiana. Do you think the psychedelic sound of Cambodia is in a certain way a re-elaboration of a first psychedelia? I think psychedelia was influenced by sort of Eastern music. So the psychedelia in the Cambodian music that I hear has always been there. But then again, some of the recordings that I've found in Phnom Penh, some of them sound like they could be the Velvet Underground, you know, but just with a very exotic singer, and the singing sounds like Indian. So they do their own psychedelia. To me, they're naturally psychedelic, and you know, when people like George Harrison and the Beatles went looking for, enlightenment with gurus in India, they were also kind of involved in the psychedelic scene. And they brought that back into Western music. So, and then of course the Western musicians, the real exponents of psychedelia, pushed that even further. But for me, it's always had this Eastern sort of sound. La cosa principale è che loro, cioè sì, in Cambogia, sono come dire dei depositari di una loro psichedelia. Psichedelia che anche gli stessi Beatles, George Harrison, quindi, hanno. Periodo indiano, praticamente. Sì, e hanno attinto questo tipo di. Poi, ovviamente, è contaminata, rielaborata, quindi hanno una loro, proprio un loro stile, insomma. E ovviamente nel disco viene rappresentata questa. E mi permetto, insomma, di dare un commento mio, insomma, penso sia quello di Emanuele, che comunque questo aspetto psichedelico anche nel concerto acustico emerge, perché è la voce della vocalista, esatto, la voce induce molto, e anche un arrangiamento più asciutto risalta molto di più il contributo, quindi la presenza scenica vocale chiaramente dà un certo risalto. Poi Julian prima diceva, insomma, che di solito si esibiscono appunto con una formazione più allargata, in questo caso sono esibiti in Villa Kazan e Martin, in formazione acustica, martedì sera assieme anche con Emanuele, che ha suonato diversi strumenti. Lui ha detto che ha perso il conto di quanti strumenti ha suonato. Io devo dire che ne ha suonati molto meno di quanti ne suona di solito. Quindi stasera solo la fisarmonica, anche se però ha una piccola percussione dietro. Cosa siamo, un xilofono forse? Sì, no, non è un xilofono. Melodica, no, un glockenspiel, non si dice, spero che non venga usato stasera. I really wish we could give you an example of this with Sri T's voice this evening, and Manueli, like a human octopus, playing all sorts of things. But the sound was really wonderful last night. Thank you, Adrian. Thank you. I did the sound. Yeah, I know, Max. Because it was you. Ha detto che il suono era anche molto buono, però il suono l'ho fatto io. Ah, l'hai fatto te? Beh, sì, questo, perché se era per loro, secondo me, a luna di notte non stavano ancora là. Ma stasera ti limiti solo a parlare? Bisogna vedere loro se mi danno un po' di spazio, perché quando mi danno un po' di spazio io me ne prendo tanto, capito? Quindi io sto tranquillo. Allora, prima hai tentato di suonare un attimo la batteria della prima e ti ha guardato male. Sì, ti ha dato uno sguardo, praticamente. Come in tutte le coppie ci sono un po' di. Gli Ovetti. Ah, voleva suonare gli Ovetti, sì. No, gli Ovetti. No. No, sì. Dovevi forse. No, ma. No, più tardi, abbiamo tempo fino io a. Io mi dedico ad altre attività, certo, nel frattempo. Certo. Allora, adesso sentiamo un altro pezzo dall'album. Che traccia abbiamo scelto, Sergio? Ti ricordi? La traccia numero 5, Cut Your Beard. Adesso la presentiamo. Facciamo presentare da Giulia. You can present the next song, the 5. The next song is it's dedicated as always to my wonderful friends here who I first came here to collaborate with, the Beards. We've also just produced a very exciting album, a couple of albums, and we were last here, of course, with Professor Louis. But this song is called Cut Your Beard, I Love You. Diciamo che questa canzone qua è dedicata a me, Emanuele, the Beards. E la canzone però si chiama Cut Your Beard, quindi tagliati la barba, non so. Sì, una cosa simile. Dedicated to beards and barbers everywhere. Dedicata a tutte le barbe. Giulia ricordava che abbiamo registrato questo disco anche con il professor Louis. Che è in uscita, uscirà, diciamo, la prima edizione a livello mondiale questo autunno. Bene. Di Moschito. Poi ne parliamo ancora, di Moschito è molto importante. Ok. Andiamo quindi a sentire la canzone. Certo. Mon cœur pour mon père, Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, siamo ancora in diretta su Blu Radio Veneto con i Cambodia Space Project, con il loro disco Not Easy Rock and Roll. Abbiamo sentito la traccia numero 5. Maurizio, cosa stai combinando? No, nella foga di sentire il pezzo si era levato via il pezzo del cavo della cuffia. Tutto il motivo era quello. Sentiamo, parlando di questo pezzo, ho notato, Giulia ha parlato del Charles Watts di Phnom Penh. Talking about this song, you say the drummer is the Charlie Watts of Phnom Penh. Yeah. There are a lot of Watts in Cambodia. They're temples and churches, you know. There's Angkor Wat, Wat Phnom in Phnom Penh. Mm. But we call Bong Sak Charlie Wat Phnom. Ah, ho capito. Because he plays very, very simple. I mean, he's never owned a drum kit. He has a pair of drumsticks, and we bring the drum kit along. I mean, it's his, but he doesn't want to take it away. He's only got a motorcycle. And ho notato, secondo me, non so se siete d'accordo, poi lo traduciamo a Giulia, la vocalist guidava proprio il pezzo. Sembrava che guidasse il pezzo, guidava proprio i musicisti, siete d'accordo? Chantin, this song seems to drive. Be a driving force. She is a driving force. She's an exception for singers in Cambodia. She is fearless. She has nothing to lose. So she is a real performer who puts everything out. She's very disappointed, by the way, that she's not here tonight. She's sick, and this is not often it's not often that she misses anything, but she is a fearless performer and a very charismatic performer, something I recognized straight away. And when I met her and saw this, I thought to myself, wow, I want to come back and produce an album around this singer. But I didn't promise anything, because I was leaving Cambodia to come to Italy to work with the Beards. And I didn't want to make big promises about what we could do or couldn't do. But when I got back, we were very, very busy playing music. And she's a champion. You know, people love what she's doing in Cambodia, and that's spilling out to other places. Diciamo, la risposta è sì. Cioè, lui ha spiegato il perché, insomma. No, ha confermato che Shanti è una forza trainante, sì. una persona che mette tutto, insomma, in quello che fa, e tra parentesi, per questo motivo è molto dispiaciuta di non essere qua stasera. Giulia ha detto che sto carisma, sì, questa forza che dà, questa forza l'aveva riconosciuta fin dalla prima volta, però non poteva fare promesse, insomma, all'epoca, perché doveva venire a registrare un disco con noi, insomma. Ah, per quello. Quindi lasciare la Cambogia per venire in Italia con voi. Però non abbiamo tradotto la parte prima che parlava del batterista. Ah sì, il batterista, esatto, sì. Ho detto che il batterista, c'è un gioco di parole, perché is the word what in Cambodian. What, yeah, what is like a church. Una chiesa. I mean, Angkor Wat is basically a giant temple. Certo, gioco di parole, perché appunto Wat significa tempio, chiesa. Sì. E quindi da sto gioco di parole, insomma, il il batterista è stato ribattezzato Charlie Wat Phnom. ho capito. Sì, ma il discorso musicale dei pezzi in questo disco c'è, però giustamente questo collegamento con la musica indiana, sia pure velata, ma esiste. There is a link with Indian music. Yeah, look, I think Cambodian culture, the Cambodian people are connected all the way to Sri Lanka, and it's the you know, this is kind of well described in the Ramayana, which is the Cambodian, you know, biblical text. The people came out of Sri Lanka on their pilgrimage and went all the way to Cambodia, but it's the border of China as well, so they're a particular type of people. And but definitely when I hear the female singers, the female singer, the voice sounds a little like Indian music, but it's unique. You know, Cambodian culture is very small these days and very special. Allora, cultura e musica cambogiana è unica, però esiste una forte connessione con lo Sri Lanka e entrambi i paesi che stanno ai confini con la Cina. Le connessioni, appunto, ripeto, le connessioni ci sono, però è molto caratteristica, molto forte la cultura cambogiana. Però sono state mediate da lui come produttore. What do you do as a producer for elaborate this strong Cambodian culture, strong Cambodian expression? You do something to I think for me as a music producer, I want to make it something that I can bring elsewhere, that I can come into Blue Radio and say, hey, have a listen to this. It's not completely alien, but of course I want to keep a little bit of the outer space element in there. The voice sounds like an alien sometimes, but really I want to take the, you know, the beautiful elements of the ethnic sound and just make it rock and roll. You know, this is just rock and roll, a raw rock and roll that everybody can kind of understand, feel emotionally, or dance to, or say yeah I like that, that's good. Diciamo che l'idea basilare è stata quella di prendere questa musica che è anche un po' aliena e diciamo renderla tale che, diciamo, che in molti posti del mondo potesse essere riconosciuta, certo, valutata, fruibile. Ballarci, sì, resa fruibile, insomma. Resa fruibile. Però senza rinunciare alla bellezza della musica etnica e sta forte componente, come ha detto Giulia, aliena, che è presente nella voce. A proposito di forte componente di rock and roll, adesso suoniamo che cosa? Like to play a song? Next song? Yeah, sure. Play? I've done this one before many times. It's a cover of my favorite singer-songwriter, and it's about two guys, two outlaws, and it reminds me of the time in France when I met the Beards. Mm-hmm. Actually, the night I said goodbye to the Beards, there was a full moon, and we were in Brittany, and they were backlit by the moon, these shadowy figures from here in Dolo, and I thought, wow, these guys look like they could be in a western. Giulia ha detto che questa canzone che andrà a eseguire è una canzone che parla di due fuorilegge e gli ricorda quando ho conosciuto The Beards in Bretagna. Ah. E dice che ricorda di quando ci ha visti una mattina molto presto, una notte, diciamo, e c'era la luna piena e ci ha visto arrivare e ha detto: questi qua sembrano dei personaggi di un film western. Ah, ok. Thank you. lived on their own, my friend, was gonna keep us young and clean. Now your skin is like iron, breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but a favorite it seems. You broke her heart that day you left, sunk into your dreams. Puncture was a bandit, boys, horses fast as polished steel. Wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. When they laid Poncho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go, nobody knows. Or did Federale say, could have had him any day. We only let him go so long out of kindness, I suppose. Lefty, he can sing the blues all night long like he used to. Dust a Poncho bit down south, ended up in poor Lefty's mouth. When they laid Poncho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go, nobody knows. Or did Federale say, could have had him any day. We only let him go so long out of kindness, I suppose. Or did Federale say, could have had him any day. Only let him go so long out of kindness, I suppose. Poets tell how Poncho fell. Lefty's living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. So the story ends, we're told. Poncho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He only did what he had to do. Now he's growing old. All the Federale say, could have had him any day. Only let him go so long out of kindness, I suppose. Oh, did Federale say, could have had him any day. We only let them get away out of kindness, I suppose. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Era una cover meravigliosa, mi ha fatto tornare indietro un po' di anni. Un pezzo meraviglioso, bellissimo, di Tony Svanzant. Cantato anche, mi ricordo, da Emmylou Harris. Molti anni fa. This song is from Tony Svanzant. Sì, Poncho and Lefty. Ah, esatto, Poncho and Lefty. Bud Spencer and Terence Hill. it's a Western song, and it's a wonderful song about a journey and a relationship, and one of the really great American songwriters. Great American song. Yeah, I mean, I've mauled the song there, killed the song almost, but it's not easy jumping out of Cambodian rock and roll back into the deserts of Texas. Non è semplice saltare da Cambodia Space Project ai deserti americani. Però c'è un collegamento, un fine c'è sempre, c'è l'emozione, c'è il feeling, quello sì. Cosa dici? It's the same feeling. Sì, I think so. It's strange, you know, it is true, there is the same feeling, the same kind of human emotion in some of the Cambodian songs, like the last song we heard, Cut Your Beard, is really, really a Western, you know, the music that I've done here previously with the Beards, the wonderful Mosquito concept album, is also a Western. It's like Pat Garrett and Billy the Kid, but made here in Italy and based on a story in Tasmania. The Townes Van Zandt songs are songs that immediately take me into the experience of feeling like you're in a film, a movie, you know. They're journeyman songs, wonderful songs. Bisogna che traduciamo il risposto, perché sennò... certo, vai, traduci. Allora, l'emozione umana è quella, e parlando di Western c'è un filo conduttore che passa attraverso l'ultima canzone che abbiamo sentito di Cambodian Space Project, che è Cut Your Beard, oppure il che va a Mosquito, l'album che ha registrato con noi, con The Beards, che è un concept album registrato qui in Italia e che parla di una vicenda ambientata in Tasmania. Quindi, nonostante ci siano chilometri, culture differenti, l'emozione umana è il filo conduttore che lega tutte queste realizzazioni. Mosquito, l'album che uscirà in autunno, e ha un filo conduttore, certo, questo è la storia di questo leggendario personaggio in Tasmania. E perché Tons Van Zandt? Perché Tons Van Zandt? Perché hai suonato Tons Van Zandt? Why you play this song? Why? I think it's one of those songs that I can't get away from. It's such a romantic song. It's romantically celebrates a tragedy. È una di quelle canzoni dalle quali non si riesce a staccare. È una canzone che celebra romanticamente una tragedia. Hai detto una cosa giusta, hai detto una cosa giustissima. Romanticamente una tragedia. Passiamo a un altro pezzo dall'album, ok? Che traccia c'è, Sergio? La numero 7, I'm Afraid of bang, Love. Bang. Well, Bang Bang is interesting. Bang Bang. Why Bang Bang? Bang Bang, you know, as I said before... near the microphone. Srey Chanti didn't grow up with any foreign music. Cambodia was completely isolated to the rest of the world. If you go to Thailand or Vietnam, neighboring countries, they will know the Rolling Stones. They'll know the Beatles, they'll know Michael Jackson, whatever. But in Cambodia, they're still isolated. And in wartime Cambodia, music spilled over the border from Vietnam through the GI radio. And Ike and Tina Turner came in. The Kinks, the British invasion, the Animals, Jimi Hendrix. And, of course, some of the wonderful... American singers like Nancy Sinatra, who actually toured to do concerts for the troops in Vietnam. It's actually a Sonny Bono song written for Cher. Yeah. But Nancy Sinatra's version is the one that Srey Chanti has discovered, and she loves Nancy Sinatra. So she's done this Cambodian version, and yeah, it's something that's very special and different to the original, and the song lives on. E la storia della Cambogia è particolare perché è rimasta isolata per molto tempo e soprattutto, come detto prima, l'epoca precedente ai Khmer Rossi era molta musica occidentale era stata recepita, metabolizzata dalla Cambogia nel vicino Vietnam per suonare per le truppe americane c'erano stati Jimi Hendrix, Ike and Tina Turner, Nancy Sinatra e di Nancy Sinatra è questa versione di Bang Bang, di Sonny Bono, chiaramente l'autore, esattamente, che piace molto a Shanti e ha voluto riproporre in versione cambogiana. Benissimo, okay. Allora l'ascoltiamo. Certo. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Oh, Rock Wave, l'onda del rock. Ultima mezz'ora insieme ai Cambodia Space Project. Maurizio. Sì, io voglio chiedere a Julian come si è avvicinato Shanti a Bang Bang. Come l'ha sentita? How did Shanti approach to Bang Bang? First of all, she there was an old Khmer version already, and by Roz Sarasapia, who was the golden voice of Phnom Penh. But she just became obsessed with Nancy Sinatra videos on YouTube. Oh, capito. But she didn't. She hasn't copied Nancy Sinatra. I mean, this version is a really driving version, and the chords and the chorus are very, very different to the original. It's almost another song. It's for me. It's very haunting. It reminds me of kind of like a Portishead sort of song. You know, the sound and the driving bass and drums. So yeah, that's how she kind of arrived at it. But it's a good song for us to do. We love playing this song. Esisteva una versione cambogiana degli anni 60 di un, diciamo, della prima Golden Voice, cantante appunto femminile cambogiana, però diciamo che la passione per questo brano è esplosa in Shanti guardando su YouTube il video di Nancy Sinatra. Poi Julian diceva che lui ricorda molto i Portishead come vero. Approccio. Ha ragione, secondo me. Sì. Non è male il discorso, secondo me c'è indovinato. C'è un piccolo, molto originale come soluzione. Sì, come versione. L'ha fatta sua, praticamente, possiamo dire questo. Sì, intendeva. Sì. Ok, suoniamo Sing? Yeah, this one's called Hurry Home. Yes. Andando verso la chiusura, Maurizio. Sì, esatto. Vorrei dire di questo pezzo che era sporcato di blues, piacevolmente sporcato di blues dall'armonica di Julian. Cosa dici, Julian? This song was stained. It was Maurizio recognized a form of dirty of dirt from blues. Sure. Really. Probably the dirt from my shoes. I play this song a lot. It's a song from an album I did with my own group, The Green Mist. And there's a video clip of this song on YouTube. And it was the last time, it was filmed the last time I visited Turkey, which is a place I'm going to fly to tomorrow. And it was filmed on the train going across Romania and Bulgaria. And anyway, it's a song called Hurry Home. And it just it's really just about sort of, you know, home, you know, wherever your heart is. An old idea. But in this song, the music works for me and it sort of tells that story for me. Diciamo che lo sporco è quello delle sue scarpe che hanno percorso, diciamo, tanto tempo, molti chilometri. E il un brano dei Green Mist. Sì. E un video di questa canzone appunto rappresenta il viaggio, con un viaggio in treno che attraversa la Romania e arriva fino in Turchia, che è dove deve tornare domani Julian, con senti tra qualche ora, insomma, si parte per la Turchia praticamente. E quindi, come aveva accennato prima, questa, come altre canzoni, ha a che fare col viaggio, in particolare col tornare a casa, insomma. Certo. Questo. E a proposito di giri, di suonare, le prossime date del progetto dove saranno? Next gigs, Giulia. Next gig, actually last night was our last gig for a while, and we've been on the road for almost 2 years since I was last here with you in the studio. I've been traveling. We've been in 15 different countries, Indonesia, China, USA, France, UK, Australia. Bali. Where? Bali, yeah. And so the Bali. Next, thank you for the cue. the next gig is in Bali. We go to play the Ubud Readers and Writers Festival, which is a literature festival, but it also has musicians who write. So, in Bali in October, and then we will tour Australia for 6 weeks, and then we come back to Cambodia, and we stay for the Christmas period, and the next year ahead, we're touring again. We haven't reached Mars yet, but we're working on it. Diciamo che è in viaggio praticamente dall'ultima volta che è venuto qua. Praticamente gira sempre in continuazione. Per ora non ci sono moltissimi concerti, se non il prossimo è a Bali, Cambodia Space Project. Per un festival aborigeno mi sembra di aver capito. Sì. È un festival molto importante praticamente. Allora adesso abbiamo un pezzo solo da far sentire, Sergio. Sì, l'ultima traccia. Adesso sentiamo l'ultima traccia. 11. This is a really 12. Simple. 12. Simple song. It's called Broken Flower, and it's a song with just acoustic guitar, the Cambodian violin, which is a one string instrument, and Sreti's voice, and she's singing about her own journey. She's singing, it's a very personal story, and she's singing about her own experience in Khmer, of course, and it's one of the most beautiful, very haunting ballads that the Cambodian Space Project occasionally does when we strip it down. Diciamo che uno dei pochissimi episodi di una ballata acustica con una specie di violino, uno strumento cambogiano, una sola corda, una chitarra acustica e la voce di Shanti che racconta che parla del suo viaggio, della sua storia, insomma. Certo. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Mưa tưng ra lốc, bọ rôm phai phat. Karena Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ultimi 10 minuti di Rock Wave Live per questo mercoledì 8 agosto 2012. Maurizio. Il rush finale. Eh sì. Ormai allora sì. Parliamo adesso, dove si può trovare il disco, dove si può acquistare? Where you see if somebody at home want to buy the LP? Well, I think it actually came out August the 1st, and it would be available by going to Rough Trade Records website or Metal Postcards website, metalpostcard.com. And it's a limited edition vinyl, but in that vinyl you get a digital download. So if you buy this beautiful piece of antique format, you also get the... digital download with it. Intanto, or you can come to a gig if you can find us. It's not so easy. It's not so easy. You have to either come to Sambrusson or Ubud Bali or Cambodia. If you can find us, we will sell you one. Ha detto che insomma se uno volesse anche andare a vedere in qualche gig qualche concerto o a Bali o in Cambogia, insomma i dischi vengono venduti anche di persona, che non è proprio comodissimo, insomma. Nel frattempo è possibile acquistarli su via internet dal sito della Metal Postcard oppure Road Trade. E nel bellissimo vinile c'è anche c'è un codice col quale si può scaricare anche la versione digitale del disco gratuitamente. Perfetto, parliamo adesso del bellissimo progetto fra voi di Moschito, che esce in autunno praticamente. Moschito è appunto questo concept album che abbiamo realizzato con Julian, e finalmente viene distribuito, insomma, a livello mondiale dalla Metal Postcard, e abbiamo, come dire, diverse cose in programma, diverse attività in programma che riguardano Moschito, la realizzazione di un musical in Australia, stiamo organizzando un tour anche che si possa ricongiungere col professor Louis, Miss certo. Marie. Io ricordo la strepitosa esibizione che ha fatto qua 2 anni fa il professor Lui, una cosa meravigliosa, unica. Che hanno, insomma, sì, collaborato anche a Moschito. Certo. Come Julian ha collaborato with My Mansion, che è il disco che abbiamo fatto con il professor Lui e Miss Marie. E quindi chi ci volesse seguire può essere aggiornato consultando il sito www.thebeards.it o andando su Facebook, e insomma ci sono cose importanti che bollono in pentola. Ci avete promesso di presentarlo qui? Sì, sì, sì. Con gli strumenti stavolta, esattamente. Il tempo di tornare in verso Belluno a prendere un'altra bottiglia di grappa. Ecco, sì. Adesso finiamo questa meravigliosa conversazione, questo happening, possiamo chiamarlo happening? Sì, possiamo, come vuoi tu. Questo happening, grazie a Julian Paulsen, che è il produttore di questo meraviglioso concept, possiamo dire concept. Ricordiamo Cambodia Space Project, il disco è Not Easy Rock and Roll. Perfetto. Copertina, un disco proprio in vinile, ce l'ho qua davanti. Website of the Cambodian. We haven't even built a website yet. It's just on Facebook. Okay, si può trovare su Facebook. If you Google search the Cambodian Space Project, you will find lots of information and it will lead to the band. Ricordiamo anche Shanti, la meravigliosa vocalist. Ok, detto comunque che cercando su Google si può trovare facilmente la pagina Facebook del gruppo Cambodia Space Project. And we remember Shanti also. Yeah, I really want to apologize on Shanti's behalf that she couldn't join us this evening. She really wanted to be here, but she's suddenly sick. But she's had an amazing experience in Italy. She just loves it here, and is addicted to spaghetti now. She's sick, but she still ordered spaghetti this evening, and we're here with her voice and her spirit. So hello, Shanti, and thank you for your beautiful voice. Hello, Shanti. Porta le scuse di. E il dispiacere di sentire per non essere qua, che comunque con la voce e lo spirito è certo, presente, certo. È comunque, come dire, stata coinvolta tantissimo da questa esperienza italiana per quanto di una settimana, e adesso ha una seria dipendenza da spaghetti. È una bella dipendenza dagli spaghetti. E Giulia diceva alla fine: grazie, Shanti, per la voce, certo, certo. Decisamente. Adesso concludiamo con una cosa meravigliosa. Io amo gli Animals, House of the Rising Sun, il pezzo più famoso degli Animals, Eric Bardo. E Julian, Emanuele e Max parteciperà anche Max a questo meraviglioso pezzo in finale. Finiamo con questo. E grazie a Sergio che ha guidato tutta la grazie la a Maurizio. Regia. La minore e il minor sì. Ok, yeah. Grazie a tutti, buonanotte, sentiamo questa cover bellissima di House of the Rising Sun. Arrivederci, ciao. Alla prossima, molto grazie. Ok. In your list, they call the rising sun, has been the ruin of many other boys, and God, I know I'm Taylor, since whom I knew blue jeans. My father was a gambling man now in New Orleans. Man needs is a sweet kiss and a trunk, and the only time he ever feels satisfied is when his owner your children not to do what I have done. spend your life in sin and misery in the house of the rising sun.